tutti cari amici e benvenuti all'ottava puntata di Vagabondo in giro per il mondo. Come sempre al microfono per voi il vostro speaker vagabondo Fumino, che oggi ha raccolto una testimonianza di un fatto che è successo in un posto di lavoro che praticamente mi ha svegliato un po' la voglia di affrontare un tema, il perbenismo. Dunque, come sempre, mi affido al Treccani, al dizionario, per leggere quale è la definizione corretta della parola che andiamo ad affrontare per iniziare questo ragionamento. Molto bene, perbenismo, con connotazione polemica, modo di comportarsi di chi vuole apparire persona per bene, seguendo con qualche ostentazione le norme della morale comune o uniformandosi a quelle della classe sociale dominante. Bene, leggendo questa definizione sul vocabolario, chiaramente ci si fa un'idea un po' più chiara di quello che vuole realmente dire questa parola. Quindi io intendo già a dire che spesso comunque succede che sia usata in maniera un po' incorretta. In ogni caso, qual è la storia che mi ha fatto un po' pensare? Ad esempio, c'è un amico che è nel posto di lavoro e per il tempo che lavora in questo posto, praticamente sì, c'ha diciamo dei rapporti con dei compagni di distanza, anche amichevoli, anche normali, e però con tante altre persone in differenza, nemmeno i saluti convenevoli quando ci incrociamo, oppure proprio astio molto pesante. Succede che ad esempio la persona in questione decide di lasciare il lavoro. Appena si sparge la notizia, la reazione comune è: ah no, che coraggio che hai avuto, che hai lasciato il lavoro, ah perché, ma hai già trovato qualcos'altro? E alla domanda: hai già trovato qualcos'altro? La risposta è: no, non ho trovato niente. Ah, come ti invidio, bravissimo, bravissimo. E questo tutti, praticamente tutti, chi gli era amico prima, chi non gli è mai stato amico e così via dicendo. Allora, prima cosa, ma bravissimo di cosa? Ma se una persona è talmente brava a fare una cosa, ma perché non la fai anche te? Cioè, e per quale motivo? Ah, bravo, bravo, bravo che ti sei licenziato e poi te che stai non lo fai. Ma che discorso è? E c'è un qualcosa che non torna, cioè, o non credi che sia bravo davvero, oppure e chiaramente lo dici solo per dire qualcosa, perché altrimenti lo faresti anche te. Cioè, dov'è il problema? Se una persona che fa una scelta del genere è talmente brava, fallo anche te. E poi chiaramente quando te ne stai per andare eri tanto bravo, mamma mia, ci mancherai tantissimo, lavorare con te era bellissimo, e questo detto da persone che magari durante il periodo che una persona ha lavorato lì non hanno mai allacciato rapporti, non hanno mai approfondito nessun tipo di discorso. E quindi perché lo si fa? Perché cerchiamo sempre di apparire per quello che non siamo? Questo non lo so, chiaramente io non lo so perché cerchiamo di fare così. So che personalmente cerco di lavorarci su questa cosa e cerco di essere sempre o comunque il più possibile me stesso, sinceramente, per quello che ho voglia di fare, per le persone con cui vivo volentieri il mio tempo. Ma perché le persone tendono a fare queste cose, mi resta un po' difficile da capire. Allora, intanto questa è una cosa che viene da molto lontano, addirittura Omero ha scritto di questo aspetto delle persone, insomma è una cosa che fa parte dell'uomo, quindi l'uomo tenta di nascondere se stesso per apparire agli altri in maniera differente da come è. Luigi Pirandello ad esempio ha detto: nel corso della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Quindi Anche questa frase qua è molto esplicativa. Ed è così, siamo, perdonatemi un po' il francesismo, da questo punto di vista siamo un po' stronzetti, perché ci comportiamo in una maniera che non è la nostra. Quando poi magari ci guardiamo allo specchio la mattina o quando ci alziamo e magari o prima di andare a letto e pensiamo quando siamo da soli con noi stessi, chissà, forse le persone se sono un po' rose dentro dalla cattiveria che c'hanno, dalla voglia di apparire, e questa voglia di apparire che è vecchia come l'essere umano, probabilmente questa voglia di apparire o questa voglia di essere quello che non si è, atteggiarsi ad esempio a sapientoni perché magari uno ha letto o legge qualche libro difficile o qualche giornale un po' più specializzato su qualcosa, magari lo legge o l'ho letto, non ci ha capito assolutamente niente di quello che ha letto, però poi si chiappa quelle due o tre parole, le cita ogni tanto quando gli sembra che farlo lo elevi a qualcosa di superiore e pensa di passare bene, e invece in realtà ha messo lì solo delle parole in croce che non c'entravano magari nemmeno più di tanto con il discorso che stavamo facendo, e quindi diventa un po' una macchietta. E alla fine anche questo tipo di cosa, dice, ah sì, io ho letto questo libro, ho letto questo trattato, sì, ma cosa ci hai capito? Cioè, hai capito qualcosa o no? Perché averlo letto è un conto, averlo capito già è molto differente, è molto lontano questa cosa qua, avere letto e avere capito una cosa. E chiaramente nell'epoca moderna, nei social network, dove è che si riflette questo aspetto dell'essere umano? È proprio sui social, quando tutti vogliono essere delle rock star. Sui social siamo tutti belli, sappiamo cucinare, visitiamo posti fighissimi, andiamo nei musei, andiamo nei teatri, facciamo qualsiasi cosa, facciamo, siamo lì con un telefono per fare una bella foto e immortalare il momento e farlo vedere a tutti. Hai visto, io sono stato a vedere la mostra su questo pittore qui, oppure sono stato a questo museo a vedere questa cosa, e mi intendo di installazioni, ah sì, l'arte moderna. Beh, quando poi magari, cioè, io sono andato a vedere una mostra tempo fa, sì, vabbè, era una mostra pop, nel senso che era una mostra di un artista molto conosciuto, ma che io non conoscevo assolutamente prima. Sono andato per vedere cosa ci sia. Non è che quando sono uscito, ero diventato esperto di questa persona, sì, sono stato a vedere questa mostra, non lo conoscevo, ho visto la mostra, c'è della roba che mi è piaciuta, ma non conoscendolo molto prima me la sono anche goduta poco in realtà. Quindi, cioè, è così, essere noi stessi. Ma che vergogna c'è? Ma che vergogna ci avete a essere quello che siete davvero? Questo io non, sinceramente non lo capisco, che vergogna ci sia, e non capisco dove si vuole arrivare a fare finta di essere quelli che non siamo, perché si può far finta per un po', si può riuscire a mantenere due facce per qualche piccolo periodo, ma alla lunga, chiaramente, anche agli occhi di chi non sa proprio vedere, alla lunga il vero volto prima o poi viene fuori e viene scoperto. Le bugie hanno le gambe corte, quindi anche essere in bugia delle persone che siamo comunque non ha vita lunga e non porta profitto. Dunque, che senso ha? Non ha senso, non ha veramente senso, a meno che uno, dicendo una bugia, comportandosi in una maniera che non è consona al suo stile di vita, e magari riceva dei benefici, dei ritorni immediati, e allora dice, se io per raggiungere questo obiettivo devo di 7 bugie, le dico, e quando l'ho dette c'ho quello che voglio e finisce. Però il bugiardo endemico, quello che lo fa senza motivo, è proprio, dal mio punto di vista, incomprensibile. E chissà se anche voi che mi avete ascoltato fino a qua ne conoscete, o se magari qualcuno ci si riconosce e magari conviene un po' che questo modo di fare non è proprio savio, non è proprio, come dire, bello, diciamo bello, usiamo questo aggettivo, bello. Bene, cari amici del Vagabondo, l'ottava puntata finisce qua. Ci riascolteremo mercoledì prossimo ancora alle 19 sulle frequenze di Radio Big World. Saluti a tutti e siate saggi!